Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Da questa domenica inizia la versione estiva di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Ci sarà una selezione, il meglio di, vogliamo chiamarla, dei nostri approfondimenti su moda, design, comunicazione, marketing e nuove tendenze. Questa settimana partiamo proprio dalla moda, svelando il mistero di uno degli interrogativi, da profani per così dire, più ricorrenti. Come nascono le tendenze che ogni stagione mettono d'accordo gli stilisti su colori, tessuti e orli delle gonne? Lo scopriremo tra pochissimo. Parliamo poi di consumatori e lamentele con un inedito viaggio alla scoperta delle cose che ci fanno arrabbiare di più quando facciamo la spesa al supermercato. Spazio al boom dei charity shop, i negozi caritatevoli, nuovo modello di business sostenibile anche per l'Italia e per il focus sui trend al ghosting, quando la scomparsa fa tendenza. La borsa della spesa. E prima di oggi non avevi mai sentito parlare? Di me? No. E non hai la minima idea dello stile, del senso della moda? Beh, penso che dipenda da quello. No. Non era una domanda. Sì, d'accordo, è vero. Ha ragione. Io non c'entro niente qui. Non sono magra, non sono super chic. Imparo molto presto. Allora ho l'esclusiva di cavalli per Gwyneth. Grazie del tempo che mi ha dedicato. Si può sapere chi è quel caso umano? È per un servizio prima e dopo la cura. Difficile capire le alchimie della moda. Il più celebre film di settore, Il diavolo veste Prada, tratto dall'omonimo bestseller, lo ha dimostrato. Noi oggi vogliamo svelare uno dei grandi segreti del sistema moda, la ragione per cui spesso le scelte degli stilisti su colori, tessuti e capi convergano. Ebbene, ci sono i trend forecaster, gli anticipatori di tendenze, una figura a metà strada tra il guru e il consulente, che individua con almeno 2 anni d'anticipo quali saranno i gusti futuri dei consumatori, e tutti gli stilisti li ascoltano declinando le collezioni sulle loro previsioni. Una delle più famose si chiama Lee Edelcourt, tra le 25 persone più influenti nel mondo della moda secondo Time Magazine. Direttrice della Design Academy Eindhoven, si occupa di analisi e ricerca per le maggiori marche internazionali. Al Capri Trend Watching Festival, dove l'abbiamo incontrata, ha svelato le tendenze 2011 in fatto di moda, design e lifestyle. Sì, ai tessuti freschi, grezzi o ricamati, leggeri e trasparenti, all'insegna di un nuovo romanticismo, fatto anche di tulle e merletti. Lunghezze a cascata e strati sovrapposti, un accorgimento che l'instabilità del clima richiederà sempre di più. Grande attenzione alle alghe, nuova fonte di energia, da cui si ricavano anche tessuti e cosmetici. Viva i metalli, anche per i gioielli, e i materiali di riuso e di riciclo per l'arredamento, dove domineranno sempre di più gli oggetti impilabili e trasformabili. Puntate sul giallo, che è il nuovo rosa e arriverà presto come il suo predecessore anche nell'armadio maschile. E se volete una dritta per un business emergente, pensate a prodotti e servizi che siano utili ai nonni e ai nipotini, viaggi e attività, soprattutto, da fare insieme. Queste dunque le indicazioni di Lee Edelcourt, parola d'ordine semplicità, anche se la guru della moda di nuova frugalità non vuole sentire parlare. I don't believe in a new frugality. Non credo in una nuova frugalità. Vedo che questa crisi è diversa da tutte le altre perché i consumatori l'hanno percepita fin da subito come una crisi finanziaria e perciò non si sono sentiti in colpa come tutte le altre volte. Perciò non prevedo un ritorno ai basics dei consumi, quanto invece una ripresa dei consumi all'insegna di emozioni rinnovate come la gioia, l'erotismo e lo splendore. E questo è molto insolito. Non è mai successo prima d'ora. Sarà una cosa molto diversa e divertente. And more fun. E per riassumere gli stili di vita futuri, Lee Edelcourt usa una frase ad effetto: We are family, siamo una famiglia. We are detecting at this point a change in mentality. Noi stiamo evidenziando in questo momento un cambiamento nella mentalità e nella società. La gente non vuole più sentirsi solo un individuo, ma vuole portare la propria individualità nel gruppo. Le persone vogliono lavorare insieme, vogliono creare legami e fare cose, fare imprese insieme. E tutto questo è favorito da Internet, ma non succede a causa di Internet, è un nuovo ideale di vita. Lo vedo specialmente nei giovani, negli studenti, che vogliono sempre lavorare in gruppo e fondano poi dei gruppi che lavorano nel design, coppie, fratelli e sorelle, team. Andiamo incontro ad un periodo in cui ci definiremo sempre di più come gruppi di persone che la pensano allo stesso modo, piuttosto che come individui unici e focalizzati su se stessi. E tutto ciò è molto nuovo. I supermercati spesso ci mettono a dura prova, ci tengono in ostaggio per ore e sono fonte di molteplici arrabbiature, per lo più a fine giornata, quando stanchi abbiamo solo voglia di tornare a casa. Ora un libro ci aiuta in qualche modo a fare pace all'insegna dell'umorismo. Si intitola La gente si lamentano, sottotitolo Strafalcioni e consigli tra gli scaffali del supermercato. Raccoglie lettere e messaggi realmente inviati alla grande distribuzione dai clienti. C'è chi presenta la mente le strampalate, chi chiede il numero di telefono alla cassiera e chi scrive solo per raccontare i fatti suoi. Una psicopatologia della vita quotidiana, leggiamo dalla quarta di copertina, che diventa uno specchio delle ansie collettive e dell'invadenza del marketing. Eccone un assaggio. Cosa? Mi dia un mezzo pollo intero. E ci credo. Non trovo le mozzarelle di bufalo. L'anticristo. Gli strangolapreti sono finiti? Macabro. Nel reparto macelleria non c'è il carnefice. Spiritoso. Mi dia i datteri migliori, quelli succhiati dai cammelli. La fantasia non ha limiti. Il vostro quartirolo è un concentrato di gesso e stucco, tanto che mio marito che fa l'imbianchino vuole provarlo. Punti di vista. Nel reparto frutta e verdura ho trovato solo i finocchi femmina, ma i migliori sono maschi. Per fortuna. Guardi che i pizzoccheri non sapevano di pizza. Pastina fortunata. Non trovo più la pastina con i glutei per il mio bimbo. Casa nova. Nel vostro ipermercato non si trovano confezioni da 12 preservativi, ma solo da 6. Ieri mi avete rovinato la serata. Dischi caldi. Il reparto Hi-Fi è un forno. Tornerò quest'inverno. Gli autori di questa divertente raccolta sono Piero Perrone, esperienza pluriennale nella grande distribuzione, e Mario Bianco, consulente esperto di risorse umane, al quale abbiamo chiesto com'è nata l'idea del libro. Ero incuriosito di sapere che cosa scrivevano le persone e che cosa mettevano nella cassetta dei reclami e dei suggerimenti, e quindi mi sono rivolto ad un amico che è Piero Perrone, era direttore amministrativo di un grande ipermercato, e ho chiesto se c'era la possibilità di dare un'occhiata a quelle lettere, e così le abbiamo lette e abbiamo fatto la famosa cernia, cioè la cernita di tutte le lettere più buffe e più divertenti, e così è nato il libro. Ci sono tutte le lettere che dicevo di tutti i reclami, e la teoria delle code, come evitare il sorpasso, che c'è la femmina domestica che è un'esperta nel sorpasso, no? Alle code, quindi diamo tutti i consigli su come premunirsi, come evitare di rimanere sempre indietro, insomma. Quindi, però questo non lo possiamo svelare, perché altrimenti è come svelare un po' il libro. Cambiamo argomento: vendono abiti e oggetti donati e reinvestono gli utili in progetti di solidarietà. Sono i charity shop, una formula molto interessante che suggerisce come convertire il consumismo in altruismo. Una formula che, dopo il boom in Inghilterra, inizia a incuriosire anche in Italia. Questa settimana parliamo di usato, ma con la U maiuscola, cioè non di un ripiego commerciale. Usato fa rima con riutilizzo, un pezzo di sentiment che da pochi piccoli segmenti della popolazione italiana si sta allargando a diverse migliaia di persone. Riutilizzo molte volte è un fenomeno individuale, usato adesso invece diventa un termine collettivo e quindi commerciale. In Gran Bretagna i cosiddetti negozi charity stanno avendo un boom. Si tratta di punti di vendita di quartiere in genere collegati con le parrocchie, soprattutto protestanti, dove gli abitanti portano indumenti e oggettistica per la casa. Usati e debitamente lavati e aggiustati, vengono messi in vendita a un prezzo modico. Pensate che a Londra un charity store ha aperto addirittura due passi da Harrods. In Italia è boom dei negozi dell'usato, come segnala l'ufficio studi delle Camere di Commercio. Si possono trovare mobili e abbigliamento, anche griffato, sotto un unico tetto. Anche nel nostro paese sono state le parrocchie a sviluppare da sempre queste tipologie commerciali, proponendo a un prezzo basso di tutto e di più. I primi clienti sono stati gli extracomunitari. Oggi a loro e alle fasce più basse della popolazione si stanno affiancando altri segmenti di cittadini. Il caso di usato più illustre della grande distribuzione resta però Decathlon con la sua formula Trocathlon. Porti i tuoi sci usati, discuti il prezzo con gli addetti del negozio, incassi un buono spesa quando il prodotto è stato venduto. Un modo civile e interessante per parlare di sostenibilità del commercio. Essere e avere. Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia. Grazie, buon pomeriggio. Patrizia ci accompagna come sempre nell'analisi delle nuove tendenze che occupa tutta questa seconda parte di Essere e Avere. Oggi parliamo di ghosting, un'espressione dall'inglese ghost, fantasma, con cui vogliamo indicare tutto quanto nei consumi giochi sulla scomparsa. Può riferirsi alla marca, al logo che dopo anni di super esibizionismo torna a nascondersi, complice anche, bisogna dirlo, il consolidarsi di nuovi stili di vita e di consumo all'insegna della sobrietà. Ma ghosting può anche significare quei prodotti e servizi che fanno del loro essere invisibili ai più il loro valore aggiunto. Patrizia. Sì, ghosting ha molti significati, è sparizione, dissoluzione, che sia fisica o mediatica, ma anche presenza mascherata, cioè esserci ma senza essere visibili, assumendo che il viso è il principale indicatore della nostra identità e quindi coperto quello ci siamo ma non siamo riconoscibili. Ghosting è una tendenza che nell'ultimo decennio ha trovato continue nuove espressioni interessando settori diversi. Un caso esemplare è Muji, in giapponese più o meno vuol dire anonimo senza firma, e appunto nasce come un non marchio, cioè un contenitore per designer noti che sceglievano l'anonimato e progettavano, producevano oggetti poi marchiati Muji. Poi è diventato comunque un brand che rappresenta, che si distingue per questo mondo in bianco, trasparente e ocra, fatto di oggetti che ormai frequentano le nostre tasche e valigie, ma anche le nostre case, cucine, bagni e stanze da pranzo. La logica opposta si trova in Coming Soon, per esempio, un marchio moda senza designer, quindi è nato dall'alleanza tra lo stilista giapponese Yamamoto e l'italiana Simv, leader nel casual di lusso, e qui la riconoscibilità appunto non è il nome del designer ma è il punto, un puntino cucito sugli abiti e sugli accessori. Sull'invisibilità mediatica, inversamente proporzionale alla fama e sempre in tema di punti cuciti, citiamo Martin Margiela, lo stilista notissimo belga, che appunto ha una fama internazionale anche se rifiuta di essere fotografato e intervistato. A volte pare risponda via fax ed è inconfondibile pur non avendo nome sui suoi vestiti, ma appunto questa etichetta di cotone bianco tenuta su da quattro punti, da quattro cuciture visibili all'esterno dei capi. Quindi questo è il segno, il minimo dettaglio che comunica comunque il suo mondo immaginario. Quindi qui la filosofia è quella della sparizione come strategia esistenziale e anche strategia di marketing. Naturalmente non parliamo del no logo, questa filosofia è anche ripresa nei suoi flagship, dove prevale il bianco, il tema della purezza ed è tutto neutro. Invece, appunto, dicevamo la maschera. Anche la maschera è un modo di esprimere il ghosting, cioè la sparizione. Lo stilista turco cipriota Çağlayan, nelle ultime sfilate a Milano, così come Bibian Blue a Barcellona, hanno usato modelle con maschere, con cappelli extra large, visiere, parasole, insomma tutti gli effetti maschere, perché nascondevano il viso, quindi gestalticamente si fa sporgere l'accessorio, si fa arretrare il corpo, il viso e l'identità quindi che esprime. E poi c'è stata in questi anni l'operazione concettuale di Prada Marfa, che ancora adesso è oggetto di pellegrinaggi appunto in Texas, a Marfa, e qui si tratta proprio dell'elitismo della scomparsa in questo, nello spazio proprio. Sulla Road 90 c'è appunto questo pop art shop creato su iniziativa della Fondazione Prada con la collaborazione di due artisti berlinesi. Nel nulla del deserto c'è questo shop chiuso, inaccessibile, a conferma e anche disconferma contemporaneamente della concezione del lusso che appunto è eternamente inaccessibile. Passando alla scena dell'arte e all'arte di strada, alla street art, oltre all'intramontato Space Invader, questo artista famosissimo anonimo francese che si fa chiamare così proprio come uno dei primissimi videogiochi storici da cui ha ricavato l'iconcina alieno, che è appunto protagonista da moltissimi anni, dal 98, dell'invasione di moltissime città. Città che vedono questa immaginetta su edifici, ponti, marciapiedi ovunque, con una diffusione assolutamente virale. E poi artisti molto noti come Banksy, uno dei maggiori esponenti della street art internazionale, anch'esso di fatto anonimo, non si sa chi sia, se non forse nato a Bristol e probabilmente maschio. Anche in Italia abbiamo una street artist, Ghosting, dalla fama in fortissima ascesa, che per molti anni ha dipinto le mura bolognesi. Si fa chiamare Erika il cane. Su Facebook, nella sua pagina, si legge che è giovane e che vive e lavora fra Bologna e la sua mente. E ci sono artisti, scrittori, cantanti, stilisti, street artist, come abbiamo appena sentito, che fanno proprio dell'essere irrintracciabile una vera e propria scelta di vita. Ci piace citare su tutti J.D. Salinger, scomparso proprio all'inizio di quest'anno, che fece questa scelta fin dagli anni 50. Nell'era di internet e del web 2.0 c'è chi fa dell'essere ungoogleable, ossia irrintracciabile dai motori di ricerca, una missione. Privacy totale in rete. Sentiamo. Quanto e come si compare in rete digitando il proprio nome e cognome nei motori di ricerca? Per molti è uno status, per alcuni però è un'invasione della propria privacy che va arginata. Ma essere incliccabile o ungoogleable, come si dice negli Stati Uniti, non è cosa facile. Una volta che Google, il più potente motore di ricerca al mondo, ti ha catturato, non c'è scampo, sei in trappola. Eppure, sostiene chi cerca l'invisibilità sulla rete, così come si sceglie di non apparire nell'elenco del telefono, si dovrebbe poter chiedere di non apparire nei motori di ricerca. Ma la rete, si sa, è libera, è poco governabile. Allora bisogna provvedere da soli, trasformando la missione in un vero e proprio stile di vita. Non rivelare informazioni personali a ditte e aziende, non iscriversi ad associazioni che pubblicano su internet gli elenchi degli aderenti, non intervenire nei forum online con il proprio vero nome. Mission impossible, avvertono gli esperti, anche perché di pari passo con gli incliccabili aumentano anche i cacciatori di nomi, professione in ascesa e non solo tra gli investigatori privati a caccia di mariti fedifreghi. Patrizia, analogamente c'è chi per scelta rifiuta di iscriversi a Facebook e simili, oppure chi si lamenta per non riuscire ad uscirne. Siamo tutti troppo sotto i riflettori? L'invisibilità sta diventando un'esigenza per certi aspetti? Diciamo che nelle nostre società vetrinizzate, per citare Vannico De Luppi, in cui cioè tutto, individui e corpi e morte compresi, vengono esposti in vetrina, è molto difficile sparire, è difficile evitare questa dinamica relazionale e identitaria in cui siamo immersi, perché l'imperativo è esserci, perché chi non c'è con le immagini e i racconti di sé appunto nelle piazze virtuali convenzionali non esiste di fatto, e scegliere di non esistere non è facile né emotivamente né sempre possibile tecnicamente. Quindi in queste nostre società svanire diventa un gesto eclatante, sovversivo addirittura, o imperdonabile, come dice l'antropologo Franco La Cecla in argomento. Infatti pensiamo anche in caso di morte, quando si sparisce davvero, la persistenza digitale o diventa irreversibile, cioè se il defunto era il solo ad avere le password di accesso, oppure viene garantita dai cimiteri virtuali online, un fenomeno già molto diffuso negli Stati Uniti e anche in Inghilterra. uno dei più celebri è www.virtualmemorials.com e poi abbiamo memoryoff.com, dotati di servizi, per esempio video commemorativi con materiali originari forniti da amici e familiari, da negozi online dove si acquistano fiori, cornici, gioielli e orpelli vari per abbellire la tomba virtuale. Si differenzia in questo mydeathspace.com, che offre sepoltura e commemora solo utenti di MySpace deceduti. Lì basta cliccare su segnala una morte e si ottiene anche un modulo dove è possibile comunicare l'avvenuto decesso di un iscritto a MySpace e che in poco tempo verrà ricordato su questo sito. Quindi il tema, che da un lato è anche molto, molto cool, molto affascinante, riuscire a sparire in rete, in realtà è anche una sfida socio-tecnologica non da poco. Sul penultimo numero di Wired America viene riportato questo interessante esperimento concorso di sparizione digitale di un soggetto test che per 2 settimane è riuscito a rimanere irrintracciabile, appunto googleable, nonostante l'uso di carte di credito, telefono, rete, eccetera, a fronte di una squadra di cacciatori, appunto, che partecipavano al concorso, di tracce digitali identitarie. Si moltiplicano agenzie come Worm di Rotterdam, che offrono servizi che si chiamano seppuki, dal giapponese suicidio, e a una modica cifra di 50 euro appunto cancellano le nostre tracce digitali per sempre. Diventiamo irrintracciabili, come si diceva appunto nella scheda, e la cosa interessante è che la modalità suicida è assolutamente vecchio stile, cioè la lettera d'addio, si scrive a tutti, si saluta e si sparisce per sempre. Non ci sorprende che Facebook sia in causa con loro. Cosa c'è di nuovo a Barcellona su ghosting e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Alessia Zampano, bentornata. Grazie, buon pomeriggio. Confesso che ho qualche remora a svelare quello che pare sia uno dei segreti meglio custoditi della città. Sto parlando della tintoreria Dontel, un ristorante locale clandestino nel cuore dell'Eixample, il quartiere modernista di Barcellona. Il nome ci dice già che c'è qualcosa che non torna, e infatti senza la dritta giusta nessuno immaginerebbe che dietro la facciata di quella che sembra a tutti gli effetti un'anonima lavanderia a secco si nasconde un ristorante elegante e raffinato. Sull'insegna esterna, accanto al nome, campeggia un vecchio ferro da stiro. Entrando ci si ritrova in uno spazio ristretto, completamente bianco, con un piccolo bancone e vestiti stirati di tutto punto e appesi in attesa di essere ritirati, che poi capiremo essere i soprabiti degli avventori. Per accedere bisogna registrarsi lasciando la propria impronta digitale, così da entrare ufficialmente a far parte del club ed essere ammessi le volte successive. Solo a questo punto una porta pressoché invisibile si apre e ci catapulta in un ambiente sorprendente, tale il contrasto con l'ingresso. Quello che ci si para davanti è infatti uno spazio lussuoso, allestito in uno stile barocco riattualizzato. Luci soffuse, comode poltrone, tappezzerie, dettagli classicheggianti in metallo e un'ampia vetrata sulla cucina. E per finire, sul biglietto da visita nessun indirizzo, ma solo una raccomandazione. Shh, non ditelo a nessuno. Grazie Alessia, trasmettiamo la raccomandazione ai nostri ascoltatori. Patrizia, in conclusione, tra un estremo e l'altro, che cosa salviamo di questa tendenza per quanto riguarda gli sviluppi futuri? Dunque, il ghosting è una tendenza, diciamo, leggera, perché è estetica, espressiva, quindi non si esprime con azioni no logo, come dicevo, cioè inteso come nel manifesto politico anticonsumo o no global di Naomi Klein. Piuttosto è una strategia liberatoria di alleggerimento. Evaporare esteticamente o fisicamente o far svanire la nostra identità, soprattutto digitale, si può leggere come una reazione al sovraccarico visivo, alla proliferazione di segni, a questi 3.000 messaggi pubblicitari quotidiani a cui siamo esposti. Insomma, è una sorta di nascondimento che diventa antidoto al troppo pieno. Comunque è un modo di esserci, di stare nel sistema e anche darsi una possibilità di distinzione quando il troppo pieno diventa di fatto indistinto, diventa indistinzione. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile come sempre sul nostro sito radio24.it, sezione podcast. Vi accompagneremo fino al 12 settembre con il meglio di della stagione e poi il via alle nuove puntate. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.